che l'amore tuo non muore, e come il sole d'oro non muore mai più. Dimmi che non mi sai ingannare, il sogno mio d'amore per sempre sei tu. Voglio tanto bene, non ho nessuno al mondo più cara di te. T'amo, sei tu il mio grande amore, la vita del mio cuore. Al cielo, la stella mia sei tu, sul mio cammino tu m'accompagni e segui il mio destino, tu sei la vita e la felicità. Sai ingannare, il sogno mio d'amore per sempre sei tu. Cara, ti voglio tanto bene, non ho nessuno al mondo